Vidi Swan. Stavo per rivolgergli la parola quando mi accorsi che il principe di Guermont, anziché ricevere sul posto il saluto del marito di Odette, l'aveva subito trascinato con sé, con la potenza di una pompa aspirante, verso il fondo del giardino, addirittura, come insinuarono alcuni, per metterlo alla porta. Distratto fra tutta quella gente, al punto che solo due giorni dopo dei giornali appresi che un'orchestra boema aveva suonato per tutta la sera e che, a intervalli di un minuto, s'erano succeduti i fuochi di Bengala, ritrovai una qualche capacità d'attenzione solo al pensiero che avrei potuto vedere la celebre fontana di Hubert Robert. Da lontano, in uno spiazzo protetto da alberi stupendi, molti dei quali non erano meno antichi della stessa fontana, si vedeva, piantato in disparte, e sul zampillo svelto, immobile, indurito, che offriva all'alito della brezza solo le piume esterne e più leggere del suo pallido, fremente pennacchio. Il XVIII secolo aveva epurato l'eleganza delle sue linee, ma fissando lo stile dello zampillo, sembrava averne arrestato la vita. A quella distanza si aveva, più che la sensazione dell'acqua, l'impressione dell'arte. Persino la nuvola d'umidità che si formava incessantemente alla sua vetta manteneva l'impronta dell'epoca, come quelle che s'assiepano in cielo attorno ai palazzi di Versailles. Ma più da vicino ci si rendeva conto che, pur rispettando, come le pietre d'un antico palazzo, il disegno tracciato inizialmente, erano acque sempre nuove a slanciarsi e nell'intento d'obbedire ai remoti ordini dell'architetto, a eseguirli esattamente nella misura in cui sembravano violarli, giacché soltanto i loro mille salti sparsi potevano creare, a distanza, l'illusione di un unico slancio. Questo, in realtà, si interrompeva non meno spesso di quanto l'acqua, ricadendo, si sparpagliava, mentre da lontano m'era parso inflessibile, denso, di una continuità senza lacune. Avvicinandosi un poco, si vedeva che tale continuità, in apparenza affatto lineare, era assicurata in ogni punto d'ascesa, ovunque lo zampillo si sarebbe dovuto spezzare, dall'entrata in gioco, dalla ripresa laterale, d'uno zampillo parallelo che saliva più in alto del primo e veniva a sua volta, a un'altezza maggiore e ormai insostenibile, rilevato da un terzo. Ancor più da vicino, gocce sfinite ricadevano dalla colonna d'acqua incrociando di passaggio le sorelle ascendenti e a volte, strappate, afferrate in un vortice dell'aria sconvolta da quell'inesausto zampillio, aleggiavano prima di sprofondare nella vasca. Esse contrastavano con le loro esitazioni, con la loro traiettoria inversa e sfumavano, coi loro teneri vapori, la drittezza e la tensione di quello stelo, sormontato da una nuvola oblunga fatta di mille goccioline ma all'apparenza bruno dorata e immutabile, che saliva ad aggiungersi infrangibile, immobile, rapida e slanciata alle nubi del cielo. Purtroppo bastava un colpo di vento a farla piombare obliquamente a terra, oppure, a volte, un singolo zampillo indisciplinato mutava direzione e avrebbe infradiciato sino alle ossa se non si fosse tenuta a rispettosa distanza la folla contemplativa e temeraria degli invitati. Uno di questi piccoli incidenti che si verificavano in pratica, solo quando s'alzava la brezza, risultò piuttosto spiacevole. Qualcuno aveva fatto credere a Madame d'Arpajon che il duca di Guermont, in realtà non ancora arrivato, fosse con Madame de Surgy nelle gallerie di Marmorosa cui si accedeva dal doppio colonnato, cavo all'interno, che si innalzava dal parapetto della vasca. Ora, nell'istante in cui Madame d'Arpajon stava per infilarsi in uno dei colonnati, un forte colpo di brezza calda distorse lo zampillo e inondò così completamente la bella donna che l'acqua dalla scollatura le sgocciolò fin dentro l'abito, inzuppandola come se l'avessero immersa in un bagno. Non lontano da lei risuonò allora una specie di ritmico grugnito, abbastanza forte da essere udito da un intero esercito, ma protratto per fasi successive, come se, anziché all'insieme dei reparti, si rivolgesse via via a ciascuno di essi. Era il Granduca Vladimiro, che rideva di cuore alla vista dell'immersione di Madame d'Arpajon, una delle cose più divertenti, come poi si compiacque di ripetere, cui avesse mai assistito. Poiché alcune persone caritatevoli facevano notare al moscovita che una sua frase di rincrescimento sarebbe stata forse opportuna e avrebbe fatto piacere a quella donna che, malgrado i suoi 40 anni suonati e a dispetto dell'acqua che rendeva insidioso l'orlo della vasca, si cavava d'impaccio senza chiedere aiuto a nessuno, badando ad asciugarsi con la sua sciarpa, il Granduca, uomo di buon cuore, pensò bene di adeguarsi e, una volta esauritisi gli ultimi rulli militari della risata, si sentì un nuovo grugnito ancor più violento dell'altro. «Brava nonna, bravissima!» gridava Vladimiro, battendo le mani come a teatro. Madame d'Arpajon non parve entusiasta del fatto che si elogiasse la sua agilità a spese della sua giovinezza. E a qualcuno che, assordato dal rumore dell'acqua che il tuono di Monsignore riusciva tuttavia a sovrastare, le diceva: «Sua Altezza Imperiale, mi sembra, vi ha detto qualcosa?» «No», rispose, «non a me, a Madame de Souvray». Attraversati i giardini, risalì lo scalone dove l'assenza del principe, ritiratosi in disparte con Swann, aveva infoltito intorno al signor di Charlus la folla degli invitati, così come a Versailles, quando Luigi XIV non era a palazzo, aumentava la cerchia attorno a Monsieur, suo fratello. Quando gli passai davanti, il barone mi fermò, mentre alle mie spalle due signore e un giovanotto si avvicinavano per salutarlo. «È un piacere vedervi qui», mi disse tendendomi una mano. «Buonasera, Madame de la Tremoille, buonasera, cara Hermini». Ma senza dubbio il ricordo di quanto mi aveva detto a proposito del suo ruolo di massima autorità a Palazzo Germain gli ispirò il desiderio di esibire, per un fatto che lo indisponeva, ma che non era riuscito a impedire, una soddisfazione cui la sua impertinenza di gran signore e la sua ilarità di isterico diedero subito, peraltro, una forma di esasperata ironia. «È un piacere», riprese, «ma soprattutto è una cosa assai bizzarra». E diede in scoppi di risa che sembravano al tempo stesso testimoniare la sua gioia e l'impotenza della parola umana ad esprimerla, mentre alcune persone, sapendo quanto fosse restivo a dare confidenze insieme portato alle uscite insolenti, si avvicinavano a gambe levate con una curiosità e una fretta quasi indecenti. «Via, non prendetevela male», aggiunse Charlus, toccandomi dolcemente la spalla. «Sapete che vi voglio bene. Buonasera, Antioche. Buonasera, Louis René. Siete stato a vedere la fontana?» mi chiese in tono più affermativo che interrogativo. «È molto bella, non vi pare? Un vero gioiello. Potrebbe essere ancora meglio, naturalmente, eliminando certe cose. Allora non ci sarebbe niente di simile in Francia. Anche così, comunque, è fra le cose più notevoli. Brutet vi dirà che hanno fatto male a mettere dei lampioni nel tentativo di far dimenticare che è stato lui ad avere un'idea così assurda, ma in fin dei conti è riuscito a imbruttirla solo in minima parte. È molto più difficile sfigurare un capolavoro che crearlo. Del resto avevamo già un vago sospetto che Brutet fosse meno forte di Hubert Robert». Mi riaccodai alla fila dei visitatori che rientravano. «È da molto che non vedete la mia deliziosa cugina Orient?» mi chiese la principessa che, lasciata da poco la sua poltrona nell'ingresso, stava tornando insieme a me nei salotti. «Deve venire stasera. L'ho vista nel pomeriggio», aggiunse la padrona di casa. «Me l'ha promesso. Penso del resto che voi siate a pranzo con noi due dalla regina d'Italia, all'ambasciata, giovedì. Ci saranno tutte le altezze possibili e immaginabili. C'è di che essere intimiditi». Nessuna quantità di altezze poteva certo intimidire la principessa di Grammont, i cui salotti ne erano gremiti e che diceva: «I miei cari Coburgo», come avrebbe detto, «i miei graziosi cagnolini». Se aveva soggiunto «c'è di che essere intimiditi», era stato per pura stupidità. Quella stupidità che nelle persone del gran mondo prevale persino sulla vanità. Sul conto della propria genealogia, ne sapeva meno di un incaricato di storia. Ci teneva piuttosto a far sapere che conosceva i nomignoli di tutte le persone di sua conoscenza. Così, avendomi chiesto se la settimana successiva avrei pranzato dalla marchesa della Pommelier, che veniva chiamata spesso la Pomme, alla mia risposta negativa tacque per qualche istante. Poi, senza altra ragione che uno sfoggio voluto di erudizione involontaria, di banalità e di adeguamento allo spirito dominante, sentenziò: «È una donna piuttosto gradevole, la Pomme». Mentre la principessa conversava con me, facevano per l'appunto il loro ingresso il duca e la duchessa di Guermont. Ma sul momento non mi fu possibile andar loro incontro perché fui acciuffato al volo dall'ambasciatrice di Turchia, la quale, accennando alla padrona di casa che avevo appena lasciata, esclamò, stringendomi il braccio: «Ah, che donna deliziosa la principessa, che essere superiore! Penso che se fossi un uomo», proseguì con un pizzico di bassezza e di sensualità orientali, «consacrerei la mia vita a quella creatura celestiale». Risposi che in effetti mi sembrava incantevole, ma che conoscevo meglio sua cugina, la duchessa. «Ma non c'è confronto», replicò l'ambasciatrice. «Oriana è un'affascinante donna di mondo che deve il suo spirito a Mémé e a Babal, mentre Marie Gilbert è qualcuno». Non mi piace molto che mi si dica con tanta sicumera cosa devo pensare delle persone che conosco. E non c'era alcuna ragione per cui l'ambasciatrice di Turchia potesse dare sul valore della duchessa di Guermont un giudizio più attendibile del mio. D'altronde, e anche questo spiegava la mia irritazione nei confronti dell'ambasciatrice, i difetti di una semplice conoscenza e persino di un amico sono per noi autentici veleni contro i quali siamo fortunatamente mitridatizzati. Ma senza addurre il minimo apparato di comparazione scientifica e lasciando da parte l'anafilassi, diciamo che in seno alle nostre relazioni amichevoli o puramente mondane vi è un'ostilità momentaneamente sanata, ma ricorrente a sbalzi. Abitualmente si soffre meno di questi veleni finché le persone sono naturali. Dicendo Babal e Mémé, per designare persone che non conosceva, l'ambasciatrice di Turchia aveva sospeso gli effetti del mitridatismo, che di solito me la rendeva tollerabile. Mi irritava, e questo era tanto più ingiusto in quanto non parlava così per far credere d'essere intima di Mémé, ma a causa di un'istruzione troppo rapida che l'induceva a nominare quei nobili signori secondo quello che riteneva il costume locale. Aveva fatto tutti i corsi in pochi mesi, senza seguire la trafila, ma riflettendoci, attribuì anche a un'altra ragione il fastidio che provavo accanto all'ambasciatrice. Non era passato molto tempo da quando in casa di Oriane la stessa personalità diplomatica mi aveva detto in tono serio e motivato che la principessa di Guermont le era francamente antipatica. Non mi parve il caso di formalizzarmi su quel voltafaccia. A provocarlo era stato l'invito di quella sera. L'ambasciatrice era perfettamente sincera nel dirmi che la principessa di Guermont era una creatura sublime, ma non avendo ricevuto sino ad allora nessun invito dalla principessa, aveva creduto di dover dare alla sua situazione di non invitata la forma di un'astensione volontaria per questioni di principio. Adesso che era stata invitata, e verosimilmente lo sarebbe stata anche in seguito, la sua simpatia poteva esprimersi liberamente. Non c'è bisogno, per spiegare i tre quarti delle opinioni che si hanno sugli altri, di spingersi sino alla ripicca amorosa, sino all'esclusione dal potere politico. Il giudizio rimane incerto, un invito rifiutato o ricevuto lo determina. Del resto, l'ambasciatrice di Turchia, come diceva la duchessa di Guermont, che ispezionò i miei compagni e i salotti, faceva la sua figura. Soprattutto era molto utile. Le vere stelle del gran mondo sono stanche di comparirvi. Chi è curioso di contemplarle si vede spesso costretto a emigrare in un altro emisfero, dove se ne stanno praticamente sole. Ma le donne del genere dell'ambasciatrice ottomana, tutte di fresco arrivo in società, non si stancano di brillarvi, per così dire, ubiquamente. danno il loro contributo a quella sorta di rappresentazione che a nome serata o ricevimento cui si farebbero trascinare moribonde pur di non mancarvi. Sono le comparse sulle quali si può sempre contare, tutte tese a non perdere una sola festa. Così i giovani sprovveduti, ignorando che si tratta di false stelle, vedono in loro le regine dello chic, mentre ci vorrebbe tutta una lezione per illuminarli sulle ragioni per cui Madame Standish, che si non conoscono affatto e che passa il suo tempo a dipingere cuscini in disparte dal mondo, è perlomeno altrettanto grandama quanto la duchessa di Doudeville.